I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Al solo nominare la parola Grecia, immagino che molti ascoltatori abbiano voglia di spegnere la radio. In effetti, l'opinione pubblica internazionale e in particolare quella europea non ne può più di una vicenda che si sta trascinando oltre ogni ragionevole valutazione. Per un paese che pesa, lo ripetiamo ogni volta, solo l'1,8% del PIL, l'Europa è ancora in stallo e l'Eurogruppo di ieri ha rinviato a sabato prossimo. Arriveremo così, come presumibile, come tutti ci auspichiamo, ad un accordo in extremis in zona Cesarini. Non vorremmo sembrare troppo pessimisti, ma è bene che chi ci ascolta sappia fin da subito che qualora, ammesso e non concesso, che si arrivi sabato a un accordo sulla Grecia, ebbene sarà solo un altro capitolo della tragedia greca. Gli aiuti che verranno sbloccati sono infatti una piccola parte, servono per pagare in primo luogo il Fondo Monetario Internazionale. Questo vuol dire che fra pochi mesi ci ritroveremo con un nuovo sviluppo delle tensioni sulla Grecia? No, non è detto, a patto che l'accordo di sabato o dei giorni successivi non sia solo un accordo ponte, ma sia invece un accordo complessivo che lasci poi tempo alla Grecia di mettere in pratica le riforme concordate e ai creditori di verificare se queste riforme vengono effettivamente applicate. Tutto potrebbe permettersi infatti questa fragilissima Europa che ritrovarsi fra qualche mese con una crisi ucraina ancora aperta, con una crisi degli sbarchi di migranti ancora da gestire e risolvere, a riaprire, dicevo, un nuovo fronte greco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Mentre l'attenzione di tutti è rivolta all'imprevedibile esito della trattativa tra la Grecia, i suoi creditori e l'Unione Europea, sul fronte macroeconomico interno arrivano alcuni segnali positivi. Il primo dato riguarda la fiducia dei consumatori e delle imprese, calcolato dall'Istat. In entrambi i casi, il mese di maggio aveva fatto segnare un arretramento di questo indice, che invece a giugno torna a salire, a conferma di un maggior ottimismo per lo stato di salute dell'economia del paese. Come detto, il miglioramento riguarda le famiglie, dove aumenta il numero di consumatori, il numero di persone che si attende un aumento dei posti di lavoro, quindi migliori notizie sul fronte del mercato del lavoro, sia per le imprese, dove c'è un miglioramento della fiducia in quasi tutti i settori, con un balzo significativo sia per il commercio al dettaglio sia per le costruzioni. Intanto anche il Centro Studi Confindustria ha rivisto all'insù le previsioni sull'economia italiana. La crescita del PIL per quest'anno è indicata allo 0,8%, un dato leggermente superiore alla stima del governo, mentre il prossimo anno il PIL dovrebbe addirittura crescere dell'1,4%. Qualche spiraglio di ottimismo, quindi, ma da prendere con cautela, dice Confindustria, che anzi ricorda che la parola ripresa per indicare questo scenario è inappropriata e anche da evitare. Meglio parlare con più realismo di una piccola ripartenza che va però sostenuta e rafforzata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.